GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un sorpasso a 140 km all'ora in una strada dove il limite è 50. Sarebbe questa la causa dell'incidente in cui sono morte due ragazze nel Trevigiano. Guidava un giovane del Pordenonese, ora in gravi condizioni. Una bambina di 2 anni di Sacile travolta ieri pomeriggio a Bibione da una ringhiera, trasportata in volo all'ospedale di Pordenone, non è in pericolo di vita. Soccorso alpino, Guardia di Finanza e Protezione Civile cercano in montagna un escursionista triestino allertati dalla fidanzata. Lo trovano nella sua tenda, ma lui li manda via. Avevo avvisato che sarei tornato il 6 marzo. Attesa per martedì la decisione del giudice sulla vicenda Porto Piccolo. La proprietà ha dato lo sfratto alla società che gestisce i servizi principali e questa ha fatto ricorso. Preoccupazione per i dipendenti. Il 4 aprile nuovo appuntamento per far incrociare domande e offerte di lavoro, in ballo 75 posti tra il negozio IKEA e altri punti vendita del Tiare a Villesse. Oggi la presentazione alla stampa. Sono 274 le start-up presenti in Friuli Venezia Giulia, aziende piccole e innovative. Nella classifica italiana la regione si colloca al 13° posto, ma è prima per il numero di quelle più recenti. Ai Civici Musei del Castello di Udine ha riaperto al pubblico la sala numero 10 dedicata al Tiepolo, con un nuovo allestimento, 4 i capolavori esposti di proprietà dell'istituzione. Il Pordenone da ieri può finalmente giocare nel ristrutturato stadio Tognon di Fontanafredda dopo un esilio a Lignano durato quasi 4 anni. I tifosi hanno risposto con il tutto esaurito. E nell'esordio nel ristrutturato stadio Tognon il Pordenone pareggia contro la Pergolettese e l'allenatore Di Carlo viene esonerato subito dopo la partita dal presidente Lovisa. La triestina perde contro Mantova. Basket in A1, Trieste ottiene un'importante vittoria in chiave salvezza in casa contro la concorrente Treviso. In A2 l'atteso derby tra Apu Udine e Gesteco Cividale finisce 73-66 per i bianconeri. Al Rossetti di Trieste un concerto dedicato a Lelio Luttazzi per celebrare i 100 anni dalla nascita del grande musicista triestino. Lo spettacolo, voluto dalla fondazione che porta il suo nome, è a ingresso gratuito. Le 7:20, buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è in prevalenza coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 9 gradi, a Udine e Pordenone 7, Gorizia 6,5, Tolmezzo 3,5, Forni di Sopra 1 grado, Sappada, Tarvisio e Piancavallo 0 gradi, Monte Lussari -3,5, Monte Zoncolan -4, Lignano 8,5, grado 8. Vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Il cielo sarà coperto con piogge sparse intermittenti deboli o moderate, più probabili e frequenti a est e sui monti. Quota neve attorno ai 700 metri circa al mattino e 1000 metri nel pomeriggio. Probabile formazione di ghiaccio oltre i 1000 metri circa di quota. Sulla costa soffierà vento moderato da sud o sud-ovest. In apertura l'incidente stradale dell'altra notte nel Trevigiano, quando sono morte nello schianto contro un platano due ragazze di 17 e 19 anni. Viaggiavano nella macchina di un giovane della provincia di Pordenone che ora è ricoverato in gravi condizioni a Treviso. Ferito anche un altro ragazzo che si trovava nell'auto. Prima dello schianto la BMW con a bordo i 4 ha sorpassato la macchina di alcuni amici che avrebbe urtato con lo specchietto retrovisore. Il tachimetro della vettura finita contro il platano era fermo sui 140 km orari. Il limite in quel tratto di strada era di 50. Ho portato dei fiori sia per Eralda che per l'altra ragazza. Così un'amica ha voluto omaggiare le due vittime dell'incidente stradale a Gorgo al Monticano nel Trevigiano, un mazzo di fiori sul luogo dello schianto. A perdere la vita Barbara Brotto, 17 anni, di Oderzo, ed Eralda Spallari, 19enne, di Ponte di Piave. Fatale l'impatto contro un platano. Un gran botto, sono uscita e ho visto la macchina sull'albero. E ho visto accorrere gente perché c'era la strada di passaggio qua. Sono arrivato subito sul luogo, una scena straziante, disastro. Veder poi arrivare i genitori che hanno scoperto, che hanno saputo che i ragazzi avevano avuto un incidente è stata una scena pessima, una scena straziante. Ricoverati in gravi condizioni gli altri due giovani passeggeri della vettura, i carabinieri hanno ascoltato la testimonianza di alcuni ragazzi che seguivano l'automobile delle giovani. La comitiva era infatti diretta verso lo stesso locale per una serata, il cordoglio della sindaca di Gorgo al Monticano. Non ho parole per le famiglie, per le ragazze che hanno le vite spezzate purtroppo e per quei genitori che si troveranno senza più i figli. Questa è la cosa grave. Ha riportato un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita la bambina di 2 anni di Sacile che ieri pomeriggio, intorno alle 15 a Bibione, è stata travolta da una ringhiera che, secondo le prime ricostruzioni, era appoggiata sul plateatico di un giardinetto in Corso del Sole e che la piccola si sarebbe trascinata addosso. La bimba è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Si trovava in compagnia dei genitori, la famiglia aveva appena finito di pranzare in un ristorante quando la bambina si sarebbe avvicinata alla ringhiera in un'area non aperta al pubblico e ne sarebbe stata travolta e imprigionata. Sull'episodio indaga la polizia locale. Aveva avvisato che avrebbe trascorso qualche giorno da solo in montagna e che sarebbe rientrato il 6 marzo, ma la fidanzata di un triestino trentenne si è ugualmente preoccupata di non aver ricevuto sue notizie telefoniche, pur sapendo che la zona ha scarsa copertura, e ha chiamato il 112. La Sores ha allertato la stazione del soccorso alpino e speleologico, la Guardia di Finanza, oltre all'elicottero della Protezione Civile per una perlustrazione aerea. Dopo qualche rotazione, uno dei soccorritori ha avvistato in Val Cadramazzo qualcosa che poteva assomigliare ad una tenda e così il pilota ha sbarcato la squadra. I soccorritori sono scesi a piedi fino al punto in cui la tenda era stata avvistata e hanno chiamato il nome dell'uomo che è uscito incredulo. Dispiaciuto per l'accaduto, ha declinato l'invito dei soccorritori a scendere a valle dal momento che stava bene, non aveva richiesto lui soccorsi e il suo programma era proprio quello di trascorrere anche questa notte in montagna per poi scendere a valle questa mattina. I soccorritori hanno ricordato che le previsioni meteo annunciano piogge e hanno raccomandato al giovane di chiamare immediatamente la Guardia di Finanza non appena sceso a valle. È attesa per martedì la decisione del giudice sulla vicenda Porto Piccolo. La proprietà ha dato lo sfratto alla società che gestisce i servizi principali, un hotel, un bar, un ristorante e una spa, e questa ha fatto ricorso. In mezzo c'è la stagione turistica che sta per aprirsi e il destino dei dipendenti. Si avvicina la stagione balneare, ma a Porto Piccolo non si respira una buona aria. La società PPN SRL, che gestisce il complesso di lusso, diventata a febbraio Trieste 2040, ha una situazione debitoria molto grave, tanto che ha ricevuto lo sfratto esecutivo da parte dei proprietari di Porto Piccolo, il Fondo Rilke, e ha fatto ricorso contro la decisione. Martedì si esprimerà il giudice. Se lo sfratto andrà avanti, il fondo affiderà la gestione del complesso a qualcun altro. Matteo Calabrò, segretario regionale UIL Tux. Chiediamo delle clausole di salvaguardia e che tutelino i lavoratori, perché sono attualmente 90 lavoratori, quindi 70 a tempo indeterminato, e senza considerare anche tutto il lavoro stagionale che può impiegare fino a 180 lavoratori durante la stagione. I lavoratori mandano avanti le attività a ranghi ridotti. L'albergo è chiuso fino al 31 di marzo, con il ristorante e il bar. Aperti, ma con i dipendenti in ferie a rotazione, la spa e la panetteria della piazzetta centrale. Alessio Serpi, rappresentante sindacale lavoratori Porto Piccolo. Con la situazione in cui stiamo lavorando stiamo tenendo noi su tutto. Non sappiamo se il prossimo mese arriverà uno stipendio. Quindi cerchiamo di dar continuità perché in questo posto ci abbiamo creduto. I problemi sono cominciati con la trasformazione di PPN SRL in Trieste 2040. Le figure manageriali sono però rimaste nella PPN Consulting e i lavoratori dunque si sono trovati senza una catena di comando. Stefano Cuccagna, UIL Tux. Poca chiarezza. E stante anche il fatto che l'organigramma sarebbe stato comunicato a breve, quindi le figure di coordinamento, i manager, diciamo, erano venuti meno. Il sindacato ora in programma un incontro con la regione. Sono preoccupati anche i proprietari dei negozi del villaggio, che già risentono del calo di turisti dovuto alla chiusura dell'albergo. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Si parlerà di start-up e giovani imprenditori nel convegno che si apre alle 10 all'Urban Center di Trieste. L'incontro sarà l'occasione per tracciare una panoramica sulle dinamiche delle start-up giovanili. Tra i relatori Francesco Tonetto, vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Trieste. Sentiamolo. A termine del 2022 lo start-up si aggiravano alle 274 unità. Essenzialmente una startup la possiamo identificare come quella società di capitali estremamente giovane in quanto a unità inferiore ai 5 anni, cui tratto caratteristico è intrinseco al loro DNA. Stiamo parlando di una società temporanea che ha come core business l'innovazione. Una società come una startup è improntata per la sua natura all'innovazione, in quanto deve sostenere spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 15% del maggior valore tra costo e valore totale di produzione. Deve avere almeno un personale altamente qualificato. Stiamo parlando almeno un terzo che abbia il PhD doctor o dottorandi o ricercatori, oppure due terzi con una laurea magistrale. Deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto e titolare di un software registrato. Com'è il Friuli Venezia Giulia per presenza di start-up e per opportunità che hanno? Il Friuli Venezia Giulia si posiziona al 13° posto a livello nazionale per numero di start-up, ma al contempo nel 2022 si è posizionato in vetta, in classifica, per il rapporto nuove start-up e nuove società di capitale. Quindi possiamo dire che in fin dei conti Friuli Venezia Giulia è un terreno abbastanza florido per le start-up. Posizionarsi nel 2022 come prima regione a livello nazionale per maggiore incidenza di nuove start-up e nuove società di capitali fa ben sperare che l'impronta dell'alta tecnologia, della innovazione e della digitalizzazione in fin dei conti è intrinseca alla volontà di questa regione. Metà degli anni 10 di questo secolo effettivamente è subentrata la rivoluzione digitale e queste realtà, queste società di capitali sono forse la miglior risposta che l'attualità e i giovani al contempo possono tirar fuori e presentare come risposta alla subentranza di questa nuova rivoluzione. Un totale di 75 posti di lavoro fra il negozio IKEA e i diversi punti vendita del centro commerciale, da addetti alle vendite nei settori abbigliamento e accessori, ottici, camerieri, addetti alla sala e al bancone per le aree ristorazione, ad arredatori e store manager. Sarà presentato oggi alla stampa il cosiddetto Recruiting Day, un evento che mette in contatto domanda e offerta di lavoro, organizzato dai servizi per il lavoro della regione Friuli Venezia Giulia con il Tiare Shopping. L'appuntamento è per martedì 4 aprile dalle 9 alle 18 in uno spazio dedicato al Meeting Place di Villesse. Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae entro martedì 28 marzo attraverso l'apposita pagina web. In attesa di un'imminente presentazione internazionale a Cannes, l'amministrazione di Trieste illustrerà oggi al Consiglio Comunale i progetti futuri del Comune e del Consorzio Ursus, che comprende lo stesso Comune, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di Sistema Portuale per il Porto Vecchio, che assumerà la nuova identità di Porto Vivo. È uno dei punti all'ordine del giorno della seduta in programma oggi del Consiglio Comunale a partire dalle 17. Viene riattivato a partire da oggi a Gorizia, dopo un anno di sperimentazione, il servizio integrativo sulla tratta Stazione Università, avviato il 28 febbraio del 2022, per offrire nuove opportunità di collegamento nel periodo di maggiore attività del polo universitario di Via Alviano. 4 le corse aggiuntive, attive dal lunedì al venerdì, che connettono la stazione ferroviaria di Gorizia con il polo universitario e che vanno a integrare il servizio già attivo durante tutta la giornata, offerto dalla linea 8 del servizio urbano. Le corse partono alle 8.25, 8.50, 9.25 e 9.48 e non hanno fermate intermedie. Sono fruibili, oltre che con il singolo biglietto orario urbano da 1,40 euro, anche con l'abbonamento alla singola linea o intera rete. Ai Civici Musei del Castello di Udine ha riaperto ieri al pubblico la sala numero 10 dedicata al Tiepolo, proprio nel giorno del compleanno dell'artista, nato il 5 marzo del 1696. Prima di tutto il colore, un rosso che si appoggia alle pareti e restituisce l'atmosfera di secoli fa. Poi la grande tela da soffitto, dal titolo La virtù e la nobiltà trionfano sull'ignoranza, in alto, a ricordare la collocazione originaria e quasi a ricostruire la percezione che ebbero i primi ammiratori, non visitatori di un museo, ma amici dell'aristocratica famiglia udinese dei Caiselli. Il nuovo allestimento della sala 10 della Galleria d'Arte Antica del Castello di Udine inventa un nuovo modo di guardare le opere di Giambattista Tiepolo, l'artista veneziano del Settecento che ebbe un lungo rapporto con la città friulana. Si gioca con gli specchi, con il colore e con nuovi materiali. L'inaugurazione, avvenuta proprio nel giorno del compleanno del Tiepolo, nato nel 1696, conclude un progetto cominciato nel 2020. Le quattro opere custodite nei civici musei, tra cui il celebre Consilium in Arena, diventano tappe di un percorso contemporaneo nella sala che ora viene dedicata allo storico direttore dei civici musei, Aldo Rizzi. Silva Gortana, curatrice del nuovo allestimento. Abbiamo voluto mettere in evidenza lo spazio attraverso l'uso del colore, non solo l'uso del colore ripreso da un tono che si trova all'interno di uno dei più importanti quadri che abbiamo qui presenti in sala, il Consilium in Arena. Abbiamo studiato un ventaglio di colori e da quello abbiamo preso il pigmento che riusciva a evidenziare in maniera più importante le opere presenti in sala. Barbara Candoni, curatrice del nuovo allestimento. Voi vedete comunque un bel colore carico alle pareti, ma questo in realtà dona questa sensazione più calda e avvolgente, coinvolgente per il visitatore. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Riprende oggi alle 17.30 il percorso di formazione e informazione dedicato a chiunque si prenda cura di un familiare o amico con deterioramento cognitivo. Il nuovo ciclo di appuntamenti aiuterà ancora a orientarsi nel mondo della demenza, affrontando vari temi. Cosa sono le demenze, come si diagnosticano e come si affrontano, quali sono i sintomi e come gestirli, come si comunica in maniera proficua e quali sono i principali bisogni assistenziali delle persone con demenza, per concludere con un'attenzione particolare al benessere del caregiver e alla sua tutela. Le lezioni proseguiranno il 13, 20, 27 marzo e il 3 aprile, sempre nella sede di Casa Viola in via Filzi 21-1 a Trieste, oppure online tramite Zoom, iscrivendosi a www.caregiveracademy.it. La partecipazione è gratuita. Il Pordenone Calcio da ieri ha un nuovo stadio di riferimento, il Tognon a Fontana Fredda. Sentiamo come è stata accolta la novità dai tifosi. 3 anni e 10 mesi, tanto è durato il pellegrinaggio del Pordenone Calcio fuori provincia. Un esilio finito con l'approdo al ristrutturato Tognon di Fontana Fredda per la gioia dei tifosi neroverdi che hanno risposto con il tutto esaurito al richiamo della sfida contro la Pergolettese. Dopo tutti questi anni di esilio speriamo di fare il nostro fortino e che ci dia i risultati che ci servono. Siamo tutti contentissimi perché sto qua è un momento storico, finalmente dopo 3 anni. Torniamo in provincia e siamo veramente contenti. Contenta che il Pordenone è tornato a giocare vicino casa? Sì, molto contenta, sì. Premesso che sono sempre andato anche a Lignano molto volentieri, ovviamente qui l'afflusso sarà maggiore, quindi per la squadra questo è un vantaggio. L'ultimo match vicino casa era stato a maggio 2019, la vittoriosa finale di Supercoppa contro la Juve Stabia al glorioso Bottecchia. Dopodiché, per le partite casalinghe, i ramarri avevano dovuto ripiegare su Udine, Trieste e Lignano. Ora il ritorno a un quarto d'ora da casa. Mauro Lovisa, presidente Pordenone Calcio. Contentissimo, un bel clima, si respira un'altra aria e ci voleva. E adesso insomma sta a noi ricambiare l'affetto della gente, cioè fare più risultati possibili, più vittorie possibili. La squadra sappiamo che ha potenziale per farlo, è normale che l'aiuto del pubblico servirà sicuramente. E se c'è chi già pensa a un nuovo stadio proprio a Pordenone, come annunciato di recente dalla giunta comunale, a molti altri Fontana Fredda va più che bene. C'è il desiderio di tornare in città, sì, che sia possibile farlo. Sarebbe bello, sì, e con uno stadio serio. Per il momento va bene così, è una nuova struttura, questa ben riammodernata, che per il momento ci accontenta e ci soddisfa. Nessuno di Fontana Fredda dico Fontana Fredda, mi dispiace, ce l'ho nel cuore. Sarebbe bello di proprietà del Pordenone, però anch'io sono di Fontana Fredda, è bello averli qua. Fontana Fredda, Daniele Lettici, TGR, Friuli Venezia Giulia. E in Serie C il pareggio interno del Pordenone contro la Pergolettese per 1-1 in questo nuovo stadio è costato il posto all'allenatore Di Carlo, esonerato dopo la partita dal presidente Lovisa. Neroverdi così terzi in classifica. La Triestina torna a perdere e la sconfitta a Mantova per 1-0 allontana la squadra labardata dalle avversarie per la salvezza. Il secondo pareggio consecutivo nel battesimo del nuovo stadio Tognon di Fontanafredda segna la fine dell'esperienza di mister Di Carlo, esonerato dal presidente Lovisa poco dopo il termine della partita. Finisce 1-1 con la Pergolettese, con i neroverdi che scivolano al terzo posto in classifica dopo Feralpi Salò e Prosesto. Padroni di casa in vantaggio al 17° con Candellone di testa su punizione ben calciata da Burrai. Nel finale di tempo, dopo una grande occasione sprecata da Varas a porta vuota, la Pergolettese va in gol con Iori dalla distanza con la complicità del portiere Martinez. Nella ripresa il Pordenone prova a scuotersi con qualche conclusione da fuori, ma ad andare più vicini alla rete sono i Lombardi con Varas che spreca mandando fuori il pallone da pochi passi. Finisce 1-1 e il pari costa la panchina a mister Di Carlo, candidato alla sua sostituzione, l'ex capitano neroverde Mirko Stefani. La Triestina interrompe la serie positiva proprio nell'occasione peggiore e lascia Mantova i 3 punti di un importante scontro salvezza. La vittoria va ai Lombardi per 1-0. Mantova in vantaggio alla fine del primo tempo, azione di calcio d'angolo dopo un tentativo di Dorazio da distanza ravvicinata. La difesa labardata è disattenta, la palla resta lì e il più rapido ad impossessarsene è Alex Pedone che batte Matosevic dal limite dell'area piccola. La Triestina reagisce all'inizio della ripresa mantenendosi costantemente in avanti. Qualche tentativo pericoloso e anche spettacolare non produce risultati. Alla fine è Adorante a tentare la via della rete di testa, ma Ciorra salva, secondo la terna arbitrale, prima che la sfera oltrepassi la linea. Giorgio Bearz, TGR Friuli Venezia Giulia. Sempre per il calcio in Serie D, il Tor Viscosa ha battuto 2-0 il Levico Terme, mentre il Cerlins ha pareggiato 0-0 sul campo del Cartigliano. Per la prima volta davanti alla nuova proprietà statunitense, con 4.600 spettatori, Trieste strappa 2 punti fondamentali per la salvezza in un turno in cui delle concorrenti nella lotta per non retrocedere ha vinto solo Verona. Dopo 3 settimane di sosta, i biancorossi fanno proprio con autorità per 97-86 lo scontro diretto al Pala Trieste con Treviso, ora superata in classifica di 2 punti, con a favore anche il 2-0 negli scontri diretti. A 10 giornate dalla fine la formazione di coach Legovic ha dietro a sé 6 squadre, il fanalino di coda Reggio Emilia è già a -8. Gran prestazione balistica dei triestini che comandano sin dalle prime battute grazie soprattutto al tiro da 3 punti, 16 su 30 in totale. Davis, 22 punti con 6 su 8 nelle triple e compagni segnano addirittura 37 punti nel solo secondo periodo, volando a più 21 prima dell'intervallo lungo e a più 23 a metà del terzo quarto, 70-47. Complice un fisiologico calo in difesa e a rimbalzo dei padroni di casa, Treviso rientra fino a meno 11 nel finale, ma non è mai vicina ad impensierire gli avversari. Non avendo ancora sostituito l'americano Gaines, il giovane allenatore triestino ha un ottimo contributo dai maggiormente responsabilizzati Ruzier, Bossi e Campogrande, ma anche da Lever e Vildera. Nico Stocca, il TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 l'atteso derby al Carnera tra Apu Udine e Gesteco Cividale è finito a 73-66 per i bianconeri. Nel momento più difficile Udine si risolleva con il derby. Senza Brisco, Gentile e con Antonutti che stringe i denti, l'Apu ritrova gruppo e identità e con un ispirato Monaldi batte Cividale in un Pala Carnera tutto esaurito da 3.400 spettatori. Il primo quarto lo chiudono avanti di 2 punti le Aquile di Pillastrini, 13-11 con basse percentuali al tiro per entrambe le squadre sotto il 42%. Equilibrio che non si spezza prima dell'intervallo lungo, nonostante lo strappo più 7 di Cividale ricucito dalla squadra di Finetti fino al 35 pari. Nel terzo quarto si accende Monaldi che mette a segno 3 triple consecutive con i canestri di Gaspardo, permette a Udine di chiudere il terzo quarto avanti di 4. Nell'ultimo tempo è la difesa dell'Apo a togliere tiri facili a Cividale che si fa scivolare dalle dita il derby. Udine si ritrova avanti di 5-2:40 dalla sirena, Cividale continua a sbagliare e il tecnico a rota a 30 secondi dalla fine chiude la gara con l'Apo che vince 73-66. Il migliore della squadra di Finetti è Monaldi, autore di 26 punti. Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Perché non ho la voce di Dorelli e di Erigliano e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare a perdi fiato da quando di te sono tanto innamorato. E la voce di Lelio Luttazzi, di cui si celebrano i 100 anni, a lui è dedicato un concerto in programma questa sera alle 20:30 nella sala delle assicurazioni generali del Rossetti di Trieste. A presentare la serata sarà il maestro Paolo Tagliaferri. Lo spettacolo è ingresso libero, con apertura delle porte alle 20, vedrà come assolute protagoniste le musiche di Luttazzi, con arrangiamento, orchestrazione e direzione d'orchestra di Gabriele Comeglio, già arrangiatore dei brani per Mina. Il concerto dunque celebra il centenario della nascita di Luttazzi a Trieste, la sua amata città, dove a fine 2007 volle tornare a vivere con un concerto di sue composizioni straordinarie interpretate dalla Big Band Jazz Company e l'esibizione di giovani talentuosi usciti dai conservatori. In scaletta indimenticabili successi e brani molto noti come Canto anche se sono stonato, che state ascoltando, Il giovanotto matto o Legata ad uno scoglio, accanto ad altre composizioni meno note ma altrettanto importanti, tra le quali Jazz allo stadio, scritta per il cinema, e Non lo so, composta per Rossana Casale. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina. Per la stagione 91 della Società dei Concerti di Trieste, 6 star del palcoscenici internazionali insieme. A guidare la squadra la top star mondiale Kolya Blacher, violinista e direttore d'orchestra tedesco. Con lui e il suo Guarnieri del Gesù del 1730, i violinisti Christoph Streuli e Christoph von der Namer e la violinista Kyung-min Park. Tutti i componenti dei Berliner Philharmoniker, Claudio Bohorquez al violoncello e Özgür Aydan al pianoforte. Alle 20:30 al Teatro Verdi di Trieste, mentre alle 19:15 al Caffè degli Specchi sarà possibile incontrare da vicino Kolya Blacher e gli altri musicisti per farsi raccontare, sotto la guida di Enzo Beacco, il concerto. E sempre a Trieste, al Teatro Miela, va in scena La questione di Penelope, spettacolo che a partire dall'Odissea vuole riflettere sulla situazione contemporanea a proposito della disparità di genere come una delle profonde radici sociali che permettono la nascita di situazioni di discriminazione e violenza sulle donne. Regia e progetto drammaturgico dello spettacolo sono di Davide Rossi. Il spettacolo che va in scena oggi e domani alle 20:30. Alle 7:44 cominciamo la rassegna stampa, incominciamo con il Piccolo di Trieste, il titolo principale è ancora sulla questione immigrazione, migranti e rotta balcanica, la geografia degli arrivi. Un titolo che richiama ad una doppia pagina firma Stefano Giantin, che esamina i numeri contrastanti che vengono appunto dalla rotta balcanica. Sono in aumento in Slovenia e Croazia e in calo in Serbia. Accanto, intesa comune sindacati sui servizi educativi, sciopero scongiurato. Dalla salute all'ambiente, morettuzzo a confronto su 6 tavoli tematici. Crescono le risse tra gruppi di ragazzini, controlli rafforzati. E nella domenica di sole, presi d'assalto, barcola i tavolini all'aperto. Dalla pagina della cultura, politica e scalate nella vita di comici. Un titolo che rimanda ad un articolo a doppia pagina di Pietro Spirito su una nuova biografia dell'alpinista triestino firmata dal canadese David Smart. Dal Piccolo di Gorizia arrivano i primi rinforzi per il Tribunale e la Biblioteca. Fedriga a Monfalcone lancia la corsa della squadra leghista. La 28enne Langella, nuovo medico di base a Staranzano. Lo stadio comunale sarà intitolato a Ernest Solvay. Il Messaggero Veneto di Udine apre con un servizio sulla scuola, elementari e medie meno iscrizioni. Classi più vuote, in regione mancano all'appello circa 700 allievi e c'è anche un altro dato, in 120 istituti accolti 800 studenti ucraini. Nella fotonotizia la tragedia di Gorgo al Monticano, Eralda e Barbara, lo schianto e la morte davanti agli amici e poi 2 richiami di cronaca. Il primo è per una proposta sul sito della ex Bertoli, un bosco e un museo. La seconda, l'addio a Don Revelant, fondò Dinsi una man per aiutare i disabili. Per lo sport il basket con lo show al Carnera, l'orgoglio di Udine è più forte di Cividale, l'APU vince il derby. Di piede la storia di 2 commercianti che hanno trovato una soluzione agli aumenti di bollette e affitti, 2 negozi udinesi negli stessi spazi per risparmiare. Sul Messaggero di Pordenone la tragedia di Gorgo al Monticano e sotto lo Sport con il debutto del Pordenone nel nuovo stadio. Lo stadio passa l'esame, il Tognon di Fontanafredda ha ospitato il ritorno dei neroverdi in provincia dopo oltre 3 anni. Non altrettanto positivo il risultato della partita, sul campo solo un mesto pareggio, esonerato Di Carlo, in arrivo Stefani. In cronaca la bambina di Sacile travolta da una ringhiera a Bibione e un altro infortunio mortale, muore a 89 anni dopo essersi ferito con la motozappa. Di piede una storia, da 100 kg di peso a re delle maratone in tutto il mondo. Siamo al Gazzettino, l'apertura di entrambi gli inserti, sia quello dedicato al Friuli che quello dedicato al Pordenonese, aprono con l'incidente di sabato notte. È un virgolettato attribuito agli amici che quella sera viaggiavano in un'altra macchina. Ci hanno superati, poi lo schianto. Strage nel Trevigiano, BMW si schianta a 143 km orari, morte 2 ragazze di 17 e 19 anni, guidava un 19enne di Pravis Domini, gravissimo il conducente, l'ipotesi della gara con l'auto di 4 amici urtati in fase di sorpasso. La fotonotizia ci mostra l'auto distrutta, il papà del giovane che guidava dice: gli ho prestato l'auto, ora prego. Accanto, dal Gazzettino di Pordenone, bambina travolta dalla ringhiera mentre gioca. Sotto, incidente fatale nel campo, una comunità sotto shock. Si parla dell'incidente mortale a Polcenigo, dove un anziano è morto dissanguato per le gravissime ferite di una fresatrice. Sotto, per lo Sport, pari nero-verde, tagliato Di Carlo. E ancora, il Chions vola e dittatura giallo-blu. Torniamo nella parte alta, a Mary Barbara Tolusso il premio Città di Moncalieri per la migliore poesia d'autore. Dal Gazzettino del Friuli vediamo i titoli che cambiano. Addio a Cherici, storico progettista che amava il Friuli, aveva 79 anni e correva per le comunali, suo il disegno della ciclabile verso Grado. E poi la regione salverà il cantiere dell'ospedale, immondizia nel capoluogo le ricette dei candidati e per lo Sport l'Udinese ora ritrova grinta e smalto. Il Tor Viscosa risale con personalità e per il basket di A2 uno strepitoso Monaldi trascina l'Old Wild West e Udine si riscatta nel derby con Cividale. Nell'ambito dell'anteprima di Trieste Book Fest è in programma oggi la presentazione del volume Sorrisi di Trieste, Sonrisas de Trieste, prima antologia collettiva degli autori dell'Associazione Poesia e Solidarietà. Il libro, curato da Mark Vesnaver assieme alla scomparsa Gabriella Valera Gruber, raccoglie le poesie su Trieste di più di 30 autori da tutta Italia, tradotte in spagnolo con la revisione di Helena Lozano, docente di letteratura spagnola all'Università di Trieste e nota traduttrice di letteratura italiana nel mondo ispanico. Al Knulp Bar di Via della Madonna del Mare 7A alle 18:30. Per la rassegna dei lunedì dello Schmidl nella Sala Batzlen di Palazzo Gopcevic è in calendario, siamo a Trieste, il terzo ciclo di 3 incontri con lo scenografo Paolo Vitale sul mondo segreto che si cela dietro il sipario. Si parlerà con l'apporto di strumenti multimediali della luce, la protagonista invisibile dello spettacolo. L'appuntamento inizia alle 17:30. Il Centro Culturale Egittologico Claudia Dolzani presenta il saggio storico L'ultima dimora di Giacomo Cavillier, con la presenza dell'autore, egittologo di fama, docente all'Università del Cairo e direttore di missione archeologica italiana a Luxor, alle 18 nella Casa della Musica di Trieste. Nell'ambito del programma Astrolabio, dedicato alle realtà editoriali e ai protagonisti della letteratura contemporanea, il critico Enzo Santese presenta l'opera della scrittrice Carla Carloni Mocavero, nata a Perugia e da tempo residente a Trieste, alle 18 nella libreria Ubic di Trieste, in Piazza della Borsa. Prima di chiudere, alcune informazioni utili. Da oggi a venerdì 10 marzo, apertura straordinaria al pubblico dell'ufficio passaporti della Questura di Pordenone dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30. Per i cittadini che hanno già ottenuto l'appuntamento mediante prenotazione sul portale dedicato, con necessità di anticipare la data del rilascio. Eventuali richieste per il rilascio urgente del passaporto per coloro che non hanno richiesto l'appuntamento e che abbiano necessità di intraprendere un viaggio all'estero per motivi urgenti di salute, lavoro, studio o altra comprovata necessità, potranno presentarsi direttamente allo sportello dell'ufficio passaporti. E sarà attivo da oggi al 31 marzo il bando per ottenere i sussidi di studio che la fondazione filantropica Ananyang mette a disposizione di studenti universitari e del conservatorio. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria sono reperibili sul sito internet della fondazione. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con Veo Ofevelin D. Alle 11.20 circa andrà in onda Tra le parole e il cuore. I protagonisti della puntata di oggi sono i giovani. Alle 11.55 Nel segno del segno sulla 7ª edizione di Udine Design Week. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In regia per la parte tecnica Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.